E come vedete, non solo c'è posto, ma c'è anche modo di starsene comodi sulla grande riva del grande fosso.